Così mi pare che funzioni. Bene. Allora, per oggi io mi ero ripromesso di parlare degli anni Ottanta tra cibercultura e cyberpunk. E voi vi eravate ripromessi, ma vedo che ve ne siete dimenticati, ma lo sapevo, di portarmi il libro di Wunnelburger sulle immagini, ma insomma se vi capita di ricordarvene, perché io ho un libro di Wunnelburger che si chiama La filosofia des images, ce l'ho in origine in francese e probabilmente non è lo stesso titolo e posso saperlo solo vedendo il vostro. E questo non è indispensabile per il nostro corso, però ci aiuterebbe a capire meglio in che modo Caroni aveva previsto di svolgere il corso. Poi naturalmente io non sono in grado, non intendo fare le cose che voleva fare lui, ma vabbè, insomma, se vi viene in mente ve ne sono grato. Io invece vorrei riuscire ad arrivare presto, quasi subito, al punto, che il punto è la lettura di alcuni testi di Caronia che concernono in modo diretto le questioni di cui stiamo parlando. Diciamo, finora io ho fatto e continuo a fare anche oggi una introduzione una introduzione storica, sociologica, al nucleo del discorso di Caronia, che sta nel territorio che sta nel punto di incontro tra tecnologie di comunicazione e letteratura, e arte. Quindi in particolare vedo che un libro che, da cui vale la pena leggere alcune cose, è Il Cyborg, in cui Caronia rifletteva proprio sulle forme di immaginazione artistica e particolarmente letteraria che hanno preparato le forme di immaginazione che hanno preparato la trasformazione tecnologica degli anni 90 e degli anni 2000. Questo sarà il punto d'arrivo. Io direi che già, non so, forse domani, forse venerdì, possiamo cominciare a leggere alcuni punti dell'opera di questi. Sono poi libri, quelli di Caronia, molto frammentari nel senso buono del termine, cioè sono articoli, brevi testi che riguardano argomenti diversi tenuti insieme da un unico tema, da un'unica problematica, e quindi arriveremo presto a quello. Oggi riprendiamo il filo del ragionamento che abbiamo cercato di svolgere fino adesso. Parentesi, spieghiamo il record. Allora, noi abbiamo cominciato con una situazione molto precisa. Berkeley, 1964, il discorso di uno studente che dice l'università è diventata un'azienda, una corporation, e gli studenti sono materia grezza da trasformare in prodotti. Noi rifiutiamo questa situazione e ci battiamo lo dice in maniera molto forte, retorica, mettiamo i nostri corpi tra gli ingranaggi per bloccare questa macchina. E perché rifiutiamo la subordinazione del sapere al potere economico e militare. Ricordate che in quegli anni, sono gli anni 60, sono gli anni della guerra in Vietnam, e quindi la posizione che prende Mario Savio ha un significato politico molto diretto: contro la guerra, contro la subordinazione, la sottomissione della ricerca delle istituzioni scolastiche universitarie, la sottomissione del sapere, insomma, al potere militare. Quindi è un'occasione molto particolare, ma il discorso è molto generale, perché quello che dice Mario Savio nel dicembre del 1964 a Berkeley, Stati Uniti d'America in guerra, però lo possono dire gli studenti di tutto il mondo, e difatti negli anni successivi, poco alla volta, quel sentimento, quella concezione di critica, di rifiuto nei confronti della sottomissione del sapere agli interessi della guerra e anche dell'economia capitalistica si diffonde in larga parte del mondo. In quegli anni, a metà degli anni 60, escono anche dei libri che rimangono importanti da questo punto di vista, proprio come critica su questo punto, come critica della congiunzione tra sapere e potere. Forse quello più significativo, più influente, è uno dei grandi libri che influenzano il movimento studentesco in tutto il mondo, è di Herbert Marcuse, un nome che forse avete sentito. Marcuse è molto noto, mai sentito Marcuse? No, Marcuse è un filosofo tedesco che durante gli anni 30, durante il nazismo, era scappato in America. Marcuse è ebreo ed è comunista, e quindi non poteva rimanere nella Germania di Hitler, naturalmente, e scappa in America, va in California. È un filosofo che si occupa, è anche un sociologo, si occupa di questioni, diciamo, della grande filosofia tedesca, di Hegel, di Marx, però nel 66 pubblica questo libro che si chiama One Dimensional Man, l'uomo a una dimensione. È un libro che vale la pena di conoscere, non abbiamo una lavagna, quindi non lo scrivo, ma Herbert con l'H, Marcuse, come lo dico, si scrive, è autore di L'uomo a una dimensione, dove proprio fa il discorso che abbiamo sentito fare a Mario Savio, però lo fa in una maniera molto più complessa, ricca. È un libro di facile lettura, che sinceramente, se uno vuole conoscere il pensiero degli anni 60, se uno vuole conoscere qual è il punto di vista filosofico che accompagna, prepara, motiva il movimento studentesco, forse non c'è libro migliore che L'uomo a una dimensione. Lui dice essenzialmente, badate quanto interessante è oggi questa riflessione, lui dice: il capitalismo nella sua fase tecnologica tende a ridurre l'umano ad una dimensione unica, e quella dimensione è la dimensione della tecnologia. Formula l'espressione imbecille tecnologico per definire questa cosa, cioè un tipo umano che conosce unicamente attraverso la tecnologia. Qual è il problema? Dice Marcuse. Il problema è che la tecnologia è una manifestazione di un processo storico nel quale le cose hanno uno sviluppo, una successione dialettica, contraddittoria, conflittuale e così via, ma la tecnologia riduce tutto ad un modello, ad una forma che deve essere rispettata in modo unidimensionale, a una sola dimensione. Marcuse attribuisce l'origine di questa visione a un riemergere del pensiero positivista, cioè di quelle forme di pensiero ottocentesco, primo novecentesco, che avevano cancellato la storia per mantenere solamente la dimensione scientifica. Solo la scienza solo il pensiero positivo è un riferimento utile per i positivisti, e invece Marcuse dice che il pensiero negativo è altrettanto importante. Cos'è il pensiero negativo? Espressione che in quegli anni viene largamente utilizzata. È la trasformazione, è il rifiuto, è la dialettica, il mutamento, il movimento, la contraddizione e quindi l'apertura di nuove possibilità. Ora, chi riduce il suo pensiero a una dimensione unica, quello che è quello che deve essere, null'altro può essere, chi fa questo perde la capacità di criticare e quindi poi di evolvere, di creare effettiva novità. Il pensiero creativo in questa maniera viene cancellato e ridotto unidimensionale. Sto parlando di un libro che forse tu hai riconosciuto, che no, è un libro di Herbert Marcuse che si chiama L'uomo a una dimensione. È un libro, dicevo, molto importante per gli anni 60 ed è il libro che accompagna sul piano filosofico l'emergere del movimento studentesco che, annunciato dalle parole di Mario Savio a Berkeley, esploderà poi nel 68 con una estensione planetaria mondiale. Quindi siamo negli anni in cui questo problema del rapporto fra sapere e potere viene ad emergere nella coscienza collettiva, soprattutto degli studenti, dei ricercatori, degli insegnanti, dei tecnici, cioè proprio di quella parte di lavoratori, di persone, che sono i produttori di sapere. Magari i produttori in formazione, come erano gli studenti, come sono gli studenti, che sono produttori, sono coloro che stanno formando la loro competenza produttiva, ma insomma è questo settore, è il sapere in qualche modo. Ecco, questo tema negli anni successivi incontra e si incorpora, si manifesta attraverso l'emergere di un movimento di massa, però al tempo stesso questo tema sta nelle profondità, nei sotterranei di un processo più lungo, che si sta preparando, che è quello di trasformazione della tecnologia e dell'intero sistema produttivo in un senso che è quello che oggi possiamo riconoscere chiaramente con espressioni come il digitale, diciamo, ma che è un senso tutto centrato intorno alla questione appunto del rapporto fra sapere e potere. In fondo l'economia del nostro tempo, l'economia della rete, diciamo, l'economia dell'informazione, l'economia digitale, le espressioni sono molte e intercambiabili in qualche misura, e qualcuno usa l'espressione il capitalismo cognitivo. E cosa è essenzialmente questa forma di economia nella quale noi ci troviamo ad agire negli ultimi 20 anni? È un'economia che ha messo il sapere al centro, ma che al tempo stesso ha assorbito, vorrei quasi dire, sottomesso il sapere, per cui il sapere diventa sì funzione produttiva, ma diventa anche funzione dipendente dal modello predominante della economia stessa, cioè dal modello capitalistico. Ecco che in questo senso l'economia del nostro tempo, l'economia post-forbista o post-industriale, per usare un'espressione diciamo storicizza il problema, l'economia post-fordista è al tempo stesso un progresso del sapere e una sottomissione del sapere. Ecco, questo tipo di contraddittorietà, di doppia valenza, mi interessa sottolineare. Potremmo anche dire che la visione di Marcuse, la previsione di Marcuse, quello della unidimensionalizzazione, cioè della riduzione del sapere ad una sola dimensione, in qualche misura si è verificata, si è realizzata, nonostante la critica che i movimenti degli anni 60 hanno opposto contro questa tendenza. Questa tendenza si è in modo paradossale si è realizzata. Perché in modo paradossale? Perché l'aspetto interessante di questa faccenda, che è sottolineato dal libro di Fred Turner, di cui io vi ho consigliato la lettura o perlomeno la conoscenza, il libro che voi trovate in PDF, in rete, è tutto semplice. Questo libro, From Counter Culture to Cyber Culture, è proprio dedicato al passaggio, alla continuità e al capovolgimento che si verifica nel passaggio dagli anni 60 e gli anni 90. Negli anni 60 c'è un movimento che punta il dito sulla e contro la questione del rapporto fra sapere e potere economico. Punta il dito dicendo questa è la questione centrale, ma anche punta il dito contro, perché dice il rapporto tra sapere e potere si trasforma in sottomissione del sapere al potere, e rifiutiamo questa sottomissione. Quindi c'è una consapevolezza e un rifiuto di questa tendenza negli anni 60, ma sta di fatto che una generazione intellettuale, quella che si forma nei movimenti controculturali degli anni 60, soprattutto in California, diciamo, però poi in larga parte dell'Occidente, una generazione che si forma dei movimenti controculturali finirà per essere anche la stessa generazione che farà da motore, che sarà il soggetto della trasformazione tecnologica degli anni 90. C'è una continuità tra controculture e ciberculture. Questo libro è tutto dedicato a mostrarla, questa continuità, mostrandola attraverso delle persone, degli individui che hanno partecipato al movimento degli anni 60 e che poi hanno avuto un ruolo culturale o anche tecnologico importante negli anni 90. Ma al di là delle biografie, al di là delle persone, delle vicende personali, questo libro mostra anche come ci sia una continuità e contraddizione di tipo teorico, tematico, filosofico, politico. Per esempio, la questione del rapporto con il potere, la forma del potere. Questo libro mostra che negli anni 60, le parole di Mario Savio lo dimostrano con chiarezza, il movimento studentesco rifiuta la sottomissione del sapere al potere e contemporaneamente rifiuta il modello prevalente del capitalismo. Negli anni 90 invece, pur continuando la affermazione, la scoperta, la costruzione della nuova tecnologia, information to the people, pur affermando lo stesso principio di informazione al popolo, però molti di coloro che avevano combattuto, che si erano opposti al dominio capitalistico sul sapere, si sono trasformati in apologeti, in persone che celebrano, riconoscono, affermano, esaltano la potenza del capitale liberato da ogni limite. E la questione del liberismo, del ritorno del liberismo, il pensiero neoliberale che si afferma in tutto il mondo negli anni, a partire dagli anni 80. E voi sapete che cosa significa pensiero neoliberale, una delle espressioni più usate nei nostri tempi. Il neoliberalismo è quella teoria secondo cui l'economia capitalistica deve essere liberata da ogni vincolo giuridico, politico, morale, legale, geografico e così via, perché la piena libertà degli interessi del capitale, dell'impresa, finisce per coincidere con l'interesse dell'intera società. Questo principio, che discende da una scuola di pensiero che si chiama per l'appunto liberismo, che è una scuola di pensiero ottocentesca, si ripresenta negli anni 70 e negli anni 80 in forma con la formula neoliberismo, il ritorno del liberismo, il principio della libertà di impresa, che ritorna quando negli anni 80 del XX secolo, quando la libertà di impresa incontra questo nuovo fenomeno che è la libera espansione della tecnologia di rete. Ecco, una forma di liberismo economico legato, o piuttosto connesso, con la espansione illimitata e svincolata da ogni limite della rete medesima. Il concetto, la metafora che si presenta con il liberismo ottocentesco è la metafora della mano invisibile, the invisible hand. Sì? Oi, ciao Roberto, prego. Tu domani ci sei? Sì, domani ci sono venerdì. Adam Smith? No, è per te. Adam Smith è il nome dell'economista che formula questa espressione invisible hand. Che cos'è la mano invisibile? È una specie di forza quasi teologica, diciamo, ma piuttosto potremmo dire automatica, una forza che regola, o meglio autoregola, le innumerevoli contrastanti tendenze della produzione, dell'economia, cioè ciascuno segue il suo interesse liberamente. E però c'è una sorta di automatismo invisibile che regola le varie manifestazioni, per quanto esse siano contraddittorie, determinando nel lungo periodo quello che Smith chiama l'ottimizzazione delle risorse e delle competenze. Cioè, se ciascuno segue il suo interesse, alla fine l'interesse di tutti si determinerà attraverso una sorta di equilibrio naturale nella dinamica complessiva dell'economia. Guardate, si tratta di una intuizione molto interessante dal punto di vista filosofico, io credo falsa, perché Smith racconta tutto questo come se l'economia si svolgesse in uno spazio perfettamente liscio, perfettamente puro, e ciascuno mette le sue competenze, la sua intelligenza, la sua capacità ciascuno produce quello che sa produrre, il mercato e riequilibra i rapporti fra la domanda e l'offerta, fra le competenze e le esigenze, eccetera, eccetera. La realtà non è questa, la realtà è che esistono gruppi sociali o individui forti e gruppi sociali e individui deboli, per ragioni sociali o per ragioni di vario genere, e che esistono strumenti per alterare il quadro, che non sono unicamente quelli della competenza e dell'interesse, ma che sono, che ne so, le armi, la violenza, il raggiro, la menzogna, tutte queste sono la realtà umana. Quindi il modello di Adam Smith è molto carino, ma descrive una società che non esiste, è molto semplice. E infatti la pratica del liberismo non crea una società perfetta in cui ciascuno dà quello che può e riceve quello che merita. Spiamo che queste sono chiacchiere per deficienti, alla prova dei fatti. La verità è che si costituiscono lobby, mafie, organizzazioni armate, o che esistono forme di comunicazione pubblicitaria finalizzate a ingannare la gente. Insomma, lasciamo perdere i dettagli. Il mondo non è fatto di entità matematiche, di entità pure. La purezza appartiene alla sfera della matematica, non alla sfera della società. E dunque il neoliberismo è un'ideologia che non corrisponde in nessuna maniera alla realtà della storia del capitalismo. Però ecco che alla fine del Novecento una nuova realtà che emerge dal terreno della tecnologia e dell'informazione, piuttosto che dal terreno dell'economia, viene in qualche modo a confermare l'ipotesi di Adam Smith. La rete in un certo qual modo sembra riproporre alla perfezione quel campo di innumerevoli forze interagenti, contrastanti, concorrenti, ma alla fine autoregolate, che era il campo descritto dagli economisti neoliberali. La rete, infatti, se lasciata alla sua autoregolazione, ha la capacità di ottimizzare le capacità e le esigenze comunicative ed anche economiche, politiche e così via, di tutti gli attori. Ecco che si ripresenta il modello neoliberista su di un piano nuovo e naturalmente il piano tecnologico, tecnocomunicativo si incontra, si integra con il piano economico stesso, nel senso che dagli anni 80 in poi le tecnologie di comunicazione reticolare, internet, le tecnologie digitali diventano la nuova forma complessiva dello sviluppo economico e però anche diventano un fattore di potenziamento, accelerazione, ampliamento, perfezionamento della potenza dell'economia stessa. A questo proposito posso citare un altro autore che parla proprio della integrazione fra rete, conoscenza e economia, e quest'altro autore è Kevin Kelly, autore di un libro intitolato Out of Control, edito in italiano così, con il titolo Out of Control, che è un libro pubblicato nel 1993, un anno importante, perché 93 è l'anno in cui praticamente inizia il processo di espansione della rete internet. Internet nasce in quegli anni, tra il 1993, quando il World Wide Web diventa accessibile e quando si comincia a poter navigare la rete attraverso i primi motori di ricerca. Insomma, la popolarizzazione della rete comincia proprio in quegli anni, e nel 93, all'inizio, nel momento iniziale dello sviluppo di internet, Kevin Kelly formula questa ipotesi della global mind, della mente globale, che sarebbe out of control, fuori delle capacità di controllo della mente umana. La mente degli individui, dei gruppi, delle istituzioni, la mente, diciamo, soggettiva, la mente cosciente e volontaria, non ha più nessuna possibilità di agire, non ha più la possibilità di controllare né di governare la mente globale, perché la mente globale, spiega Kevin Kelly, è di una complessità infinitamente superiore alle capacità di elaborazione della mente individuale. Sappiamo che cosa sta dicendo, insomma, sta dicendo che nessuno può conoscere tutto quello che accade all'interno di internet più di quanto qualcuno possa conoscere tutto quello che accade nel mondo, ma la differenza è che per poter agire nell'economia di rete noi dobbiamo rinunciare alla possibilità di un governo sulla rete medesima. La rete si governa da sé, è una forza autoregolativa. E in questo senso, dice Kevin Kelly, viene confermata l'ipotesi della invisible hand, della mano invisibile che regola i processi di produzione, di proliferazione, di concorrenza fra i diversi agenti, siano essi agenti comunicativi, siano essi agenti produttivi ed economici. Kevin Kelly dice anche: dobbiamo liberarci dalla paura di una situazione fuori controllo. Lì se la prende in qualche modo con la stessa tradizione umanistica, con il pensiero politico della modernità e particolarmente poi ovviamente con il socialismo moderno, con lo statalismo moderno, perché lui dice l'idea che l'uomo deve governare la realtà è un'idea sbagliata. La realtà si governa da sola. Se noi siamo capaci di entrare in questo flusso, se siamo capaci di interpretare il ritmo che il flusso ci impone, a quel punto non abbiamo più bisogno di controllare la realtà medesima, diventeremo invece elementi positivi e anche felici della autoregolazione dell'economia e della rete. In un certo senso voi vedete che si sta disegnando una sorta di teologia. La rete è Dio, la mente globale, anche l'espressione global mind, è molto vicina ad una visione teologica, e è interessante il fatto che in fondo poi nella cultura californiana, già dagli anni 60, ci fossero molti elementi di tipo religioso, mistico, la cultura hippie, la riscoperta delle religioni orientali, un certo tipo di filosofia mentalista, cioè l'idea dell'autonomia del funzionamento della mente umana rispetto all'ambiente e così via. Tutti questi sono elementi che agiscono profondamente nella formazione del concetto di global mind, di ovviamente globale, ma anche agiscono nella formazione di un pensiero, di una cultura che mescola, mette insieme il modello neoliberista in economia con il modello dell'autoregolazione cibernetica nelle tecnologie di comunicazione. L'altra volta avevamo parlato di Norbert Wiener, autore della Introduzione alla cibernetica, e Norbert Wiener dedica parte del suo pensiero, del suo libro più importante, quello lì, Introduzione alla cibernetica, lo dedica proprio alle dinamiche di autoregolazione. Autoregolazione è una parola che viene dalla cibernetica. Autoregolazione è la capacità di un meccanismo, di una macchina, di regolare, di restituire a se stessa l'equilibrio. Una macchina comporta una dinamica, una trasformazione, un processo, un movimento. In questa trasformazione l'equilibrio viene interrotto, messo in questione, però la macchina cibernetica possiede la capacità di ricostituire l'equilibrio. Se voi pensate ad un regolatore della caldaia, capite di che cosa stiamo parlando. Insomma, il termostato fa sì che ad un certo livello della temperatura circostante il meccanismo si autoregola e abbassa il fuoco, così che si mantiene la temperatura prevista. Nessuno deve intervenire dall'esterno perché la macchina si autoregola, si tratta di un sistema autoregolativo. Ecco, concetto di mano invisibile qui riappare sia sul piano dell'economia che sul piano della tecnologia di comunicazione e poi alla fine della rete. Ecco dunque una continuità tra il pensiero degli anni 60 e degli anni 90, ma anche una trasformazione, una contraddizione. Continuità perché l'idea del sapere, dell'organizzazione di una tecnologia del sapere, l'information to the people, diciamo così, è formulata dai movimenti studenteschi e poi la ritroviamo nella formazione della tecnologia di rete e lo ritroviamo nella cultura che accompagna questa formazione, la cibercultura. Ma continuità dunque, ma anche contraddizione, perché negli anni 60 il movimento vuole resistere, opporsi alla cattura capitalistica, alla sottomissione del sapere all'economia, e invece negli anni 90 le stesse persone, in buona parte o comunque con lo stesso movimento, vede nella integrazione tra economia e sapere, tra economia e tecnologia di comunicazione, un elemento di rafforzamento, di espansione, di ricchezza, un elemento positivo. Ecco, questa è un po' la dinamica che racconta Fred Turner nel suo libro. Questo è un poco il quadro storico che io volevo insomma ricostruire per chiarirvi come dagli anni 60 agli anni 90 vi sia un processo, soprattutto quello che più mi interessa, di tipo culturale, che sta a fondamento della formazione dell'ideologia, della cultura, della sensibilità della rete e della cultura contemporanea che la accompagna. Però qua siamo appunto ancora all'introduzione, mentre a me interessa anche, mi interessa anzi diciamo più centralmente, vedere come negli anni 90 essenzialmente il nuovo mondo, il mondo che si costituisce essenzialmente intorno alla formazione della rete, e il nuovo mondo economico, sociale, produttivo, esistenziale, scolastico, psichico del nostro tempo, ecco, questo nuovo mondo nasce da una integrazione, da un contrasto molto molto profondi e anche abbastanza violenti, che negli anni 90 possiamo leggere attraverso la doppia faccia della cibercultura positiva e del cyberpunk. Ecco, qui entra in scena un elemento nuovo, un elemento che la teoria, l'ideologia neoliberista non aveva visto, non aveva voluto vedere, non riconosce. Questo elemento è il corpo, è la corporetta, la sofferenza, il piacere, il desiderio, la violenza, tutte quelle figure, quelle forme, quelle immagini che il cyberpunk porta violentemente sulla scena e che invece erano rimaste in qualche modo rimosse da parte dell'ideologia della mano invisibile. Come dicevo prima, il modello della mano invisibile è un bel modellino in sé. Se tutte le forze, se gli agenti economici si muovono liberamente sulla scena del mercato, liberamente sulla scena pura del mercato, se ciascuno persegue il suo interesse e mette a disposizione le sue capacità, alla fine, senza bisogno di nessun intervento esterno al mercato stesso, ciascuno ne ricaverà ciò di cui ha bisogno, il massimo di ciò che è possibile ricavare. Questo lo diciamo. È solo che, come dicevo prima, non c'è quella sfera pura di cui sta parlando Adam Smith. Non esiste la purezza del mercato, esiste la realtà molto impura della società. Cosa vuol dire puro e impuro? Puro in un certo qual modo è soltanto la matematica. Puro significa, ecco, cosa vuol dire puro? Direi che puro significa esente dall'effetto del tempo. Beh, poi possiamo trovare mille altre definizioni, ma intanto io propongo questo: puro è ciò che non è sottoposto al tempo. E cosa invece è sottoposto al tempo? È la materia organica è sottoposta al tempo. L'organico, la carne, il sangue, il sesso, l'affetto, tutto questo è sottoposto al tempo. Dove c'è tempo non c'è purezza. Perché tempo vuol dire la malattia, la morte, il venir meno, e dunque vuol dire anche la violenza, il tentativo rabbioso di appropriarsi di qualcosa, perché per l'appunto il tempo ci porterà via tutto e così via. Se fossimo fuori del tempo saremmo perfetti, ma non lo siamo. I numeri sono fuori del tempo, gli algoritmi sono fuori del tempo, il teorema di Pitagora è fuori del tempo, nulla agisce su quella sfera, la sfera della perfezione matematica. Il problema è che Albert Einstein, in un discorso, non mi ricordo più quale, dice proprio che laddove comincia la matematica, là finisce la vita. E laddove comincia la vita, là finisce la matematica. E questo è il punto, che la vita è irriducibile alla matematica. Dobbiamo, diciamo, capire il senso di questa questione, perché poi le implicazioni di questa irriducibilità della vita a struttura, a mateme, a perfezione matematica comporta una quantità di conseguenze sul piano etico, sul piano filosofico, sul piano politico e anche naturalmente sul piano economico. Ecco, e probabilmente l'errore più grande che fanno gli economisti, particolarmente gli economisti neoliberali, è proprio di credere che la matematica possa governare la vita. E dunque facendo delle equazioni, quando le equazioni sono giuste, che poi non lo sono, facendo dei calcoli matematici si può organizzare la vita della società. La vita della società deve essere organizzata secondo principi molto più complessi, sfumati, contraddittori, io direi anche ironici, cioè tolleranti di quello che la matematica e l'economia prevedono. Bene, nel corso di quel processo che porterà alla formazione della rete, accadono naturalmente tante cose fra gli anni 70, diciamo, e gli anni 90, 60, 70, 90. Sapete che il primo atto costitutivo di quella che noi chiamiamo Internet avviene nell'anno 69, 68-69, la decisione è del 68, l'esecuzione del 69, ed è la creazione di un sistema di distribuzione telefonica della informazione che prende nome di ARPANET. È un sistema di tipo militare, i militari americani decidono che se tutte le loro informazioni stanno dentro un computer, pericolo, i russi possono bombardarla. E allora cosa fanno i generali americani? Hanno l'idea di distribuire l'informazione contenuta in un computer dentro 100 computer sparsi sul territorio americano attraverso la rete telefonica. Bene, il concetto è lì, è il concetto che porterà alla formazione di Internet. Negli anni successivi, infatti, proliferano le connessioni dirette. dirette, soprattutto in ambiente accademico, le facoltà di fisica, di informatica di molti paesi si mettono in contatto telefonico fra loro per scambiarsi le informazioni. Poi, negli anni 80, cominciano a costituirsi anche delle comunità di scambio telefonico di informazione, di informatica, diciamo. E queste comunità nascono prima di tutto in California, contemporaneamente anche in Francia, bisogna dire. In Francia, già l'ho citato, negli anni 80 viene realizzato un esperimento importantissimo che si chiama Minitel. Il Minitel è un sistema di distribuzione attraverso la rete telefonica di informazione sui cinema, sui treni, su varie cose della vita collettiva che i cittadini francesi possono ricevere attraverso dei piccoli computer messi a disposizione dello Stato. È già internet quello, è un internet molto povero perché non esistono le immagini, perché la navigazione è molto povera, nel senso che ci sono un certo numero di indirizzi segnalati da un numero di quattro cifre, tu scrivi quattro cifre, 7412 e hai gli orari ferroviari. Scrivi il numero 4912 e hai il cinema nella città di Parigi o di Bordeaux e così via. A un certo punto il Minitel istituisce anche un servizio che si chiama servizio convivialité o messaggeria anche, ed è quello che oggi chiameremmo social network, o comunque perlomeno è un. Beh, sì, è più vicino al social network che all'email. Sono le prime forme di comunicazione, di comunità, di creazione di comunità all'interno della rete Minitel. Naturalmente, il servizio che cresce più di tutto è la messaggeria rosa. In realtà è un servizio che per buona parte è collegato con gli scambi di affettività, gli scambi sessuali, in buona parte anche la prostituzione. C'è un certo numero di siti che nascono con uno scopo di questo genere. E l'aspetto interessante dal punto di vista sociologico è che quello il servizio, la messaggerie, diventa il servizio più frequentato dai minitelisti francesi, al punto da provocare nel 1984 un crollo dell'intero sistema perché non era previsto che tutto il volume del traffico si concentrasse su alcune importanti tecniche, e quindi per qualche mese dovettero ricomporre il sistema. Ma insomma, vedete che intorno al Minitel già si svolge una dinamica limitata. Limitata prima di tutto al francese, alla lingua francese e ai cittadini francesi, però una dinamica che già anticipa quello che poi nei decenni successivi esploderà sulla scala globale con la denominazione di internet. Il presidente della Repubblica francese era Mitterrand, socialista, e Mitterrand aveva distribuito gratuitamente 1 milione di mini computer per poter creare la rete, naturalmente, se no era inutile fare un servizio a cui poi nessuno potesse avere accesso. Quindi vengono regalati 1 milione di Minitel soprattutto a cittadini poveri che non hanno la possibilità di comprarselo, perché poi invece molti altri se lo andarono a comprare, per cui nel giro di un paio di anni in Francia c'è un, mi pare che raggiunsero 4 milioni di utenti, quindi era già un fenomeno consistente. Siamo negli anni 80, alla fine degli anni 90, degli anni 80 e all'inizio degli 90, al CERN di Ginevra un certo numero di tecnici guidati da Tim Berners-Lee creano le interfacce decisive per un accesso generalizzato alla navigazione di rete, e queste interfacce prendono il nome di World Wide Web. La denominazione viene ufficializzata nel 1992, e in quello stesso anno si creano anche dei motori di ricerca, non si creano, diventano accessibili, perché poi la creazione era già avvenuta prima, però solo in quell'anno vengono commercializzati, popolarizzati. I primi motori di ricerca si chiamano Mosaic, poi Netscape, poi Altavista, Web Crawler e così via, fino a Google, però è un fenomeno del nuovo decennio, del secondo decennio di Internet. Bene, questo tanto per raccontare, l'avete già sentito 100 volte forse, ma insomma, per raccontare rapidamente la storia che prepara Internet. Ma questa storia, questa è la storia tecnica, diciamo, o se volete tecnopolitica della rete, la creazione delle strutture, delle interfacce, e poi la decisione politica di Mitterrand di mettere a disposizione dei francesi, poi anche la stupida decisione politica di Mitterrand di non aprire il Minitel, perché è interessante questo, che a un certo punto gli ingegneri che avevano costruito il Minitel, particolarmente uno che si chiama Thierry Godin, andò a visitare il presidente e gli disse: ma noi stiamo facendo una cosa che potrebbe interessare tutto il mondo se la apriamo con altre possibilità di lingua, cioè apriamo all'inglese ad esempio, e se ne facciamo, la rendiamo accessibile anche dall'estero, diventa un fenomeno. Ma Mitterrand rifiutò completamente questa possibilità. Questo è molto significativo, perché ci dice qualcosa sulla incapacità del pensiero politico, del pensiero politico moderno, diciamo, legato alla nazione, al territorio, alla lingua, all'identità, eccetera, l'incapacità del pensiero politico moderno di interagire con questa nuova dinamica, che è la dinamica globalizzante della rete. In effetti, per rimanere ancora in Francia, nel 1977, quindi ancora prima del Minitel, c'era stata la pubblicazione di un libro che si intitola in francese L'informatisation de la société, l'informatizzazione della società. Il libro lo trovate anche in italiano, edito da Bompiani, con il titolo Convivere con il calcolatore o con il computer, titolo piuttosto imbecille, ma insomma. E il libro in realtà è scritto da due persone, un ingegnere che si chiama Simon Nora, e da un sociologo che si chiama Alain Minc, Minc e Nora, autori di L'informatizzazione della società. E il libro è molto lungimirante, molto interessante, perché si spinge a prevedere che l'effetto della nuova tecnologia, che loro Nora e Mink definiscono telematic, la telematica, informatica più telefonia. E loro dicono che la telematica è destinata a distruggere la potenza nazionale degli stati, la sovranità nazionale. Perché? Perché i confini nazionali non potranno nulla contro la integrazione delle reti telefoniche che porteranno informazione economica, politica, eccetera, eccetera. E quindi come faranno gli stati a imporre la tassazione in un paese? Come faranno a imporre certe regole sulla produzione, sulla distribuzione? Come faranno a imporre le loro leggi e così via? È un problema che oggi noi vediamo molto, molto chiaramente. Le corporation globali, le multinazionali, o insomma le corporation globali, sono proprio dei sistemi economici integrati che, grazie all'uso della telefonia e dell'informatica, cioè di internet, possono agire contemporaneamente in molti paesi, per cui possono pagare i loro lavoratori in India, avere gli uffici della progettazione a Londra, gli uffici finanziari a Rio de Janeiro e poi vendere i loro prodotti a Napoli. Nulla lo impedisce, perché l'integrazione della informazione diventa anche integrazione del lavoro, in quanto il lavoro è sempre più lavoro di informazione. E naturalmente poi ci sono degli aspetti materiali che devono essere territorializzati, ma all'interno di una rete sempre più integrata. Ecco perché gli stati nazionali, la forma dello Stato nazionale è diventata così incapace di governare il processo economico, perché lo Stato nazionale ha una vigenza, dominio che è territoriale, limitato, mentre l'informazione e quindi l'economia ha carattere globalizzato. Vabbè, qui semplicemente volevo ricapitolare alcuni elementi di storia della rete che probabilmente voi conoscete già, ma che così riuscite ad avere in una maniera più organica, più integrata. Ecco, quello che il mio punto d'arrivo però invece, come dicevo, è l'emergere di questa cultura o di questa doppia cultura che è manifesta fin dagli anni Ottanta nel doppio binario della cibercultura e del cyberpunk, di una faccia, diciamo, ottimista, luminosa, progressiva, tecnofila, che si può definire come cibercultura, e di una faccia invece più drammatica, dolorosa, contraddittoria e spesso tecnofoba, che si manifesta attraverso il cyberpunk. Tecnofilia, tecnofobia. Beh, non è difficile. Tecnofilia è una parola che viene dal greco. Filia in greco vuol dire amicizia. Tecnofili sono dunque gli amici della tecnologia, coloro che pensano che la tecnologia è un fenomeno favorevole all'umano, un fenomeno progressivo, liberatore e insomma, buono. Fobia in greco vuole dire paura, terrore, inimicizia. E dunque tecnofobo è colui che pensa che invece la tecnologia fa male, insomma crea malattia, mutazione dolorosa e così via. Tecnofilia e tecnofobia sono presenti nella storia della cultura moderna, almeno della cultura novecentesca, in molte maniere, però è solo con nel tardo Novecento che queste due tendenze si manifestano in maniera così chiaro, così riconoscibili, anche perché nel tardo Novecento abbiamo un'accelerazione di quelle tecnologie che più direttamente interagiscono con la sfera umana, l'informatica che interagisce con la dimensione mentale e la biogenetica che interagisce con la dimensione fisica, corporea dell'umano. Se voi ci pensate, mi scuserete per tutte queste digressioni, ma tanto che fretta c'è. E se ci pensate, nel Novecento c'è un movimento culturale e letterario che si pone il problema della tecnologia in modo fortissimo, esasperato e estremamente positivo e diciamo quasi fanatico, non so se vi viene in mente a chi sto facendo riferimento. Naturalmente al futurismo, sto facendo riferimento a quel movimento che dal 1909 prende nome di futurismo ed è fondato sulla esaltazione della tecnologia come fattore di liberazione, potenziamento, arricchimento, accelerazione. Il futurismo è un movimento che nasce in Italia nel 1909 con un manifesto, che è il manifesto futurista di Filippo Tommaso Marinetti, insomma, uno scrittore italiano, però poi lo stesso movimento si presenta anche in Russia negli stessi anni. Interessante, proprio l'Italia e la Russia, che sono i due paesi più arretrati sul piano tecnologico ed economico, sono quelli che esaltano, in cui nasce un movimento che esalta di più la tecnologia, ma non è così strano, perché in fondo è proprio in Italia e in Russia che c'è un bisogno di una cultura tecnofila che esalti la tecnologia. E il manifesto futurista del 1909 è un testo che io vi consiglio di leggere, perché se digitate Marinetti manifesto futurista lo potete leggere, ed è uno dei testi fondamentali nella cultura del Novecento, insomma, di accesso alla cultura del Novecento. La tecnologia viene lì esaltata in maniera del tutto unilaterale. La tecnologia, la velocità. Ma di che tecnologia sta parlando Marinetti? Sta parlando della tecnologia meccanica. Sta parlando dell'automobile, dell'aeroplano, del motore, della turbina, dell'acciaieria, del tornio elettrico, della catena di montaggio, cioè della macchina esterna, io la chiamerei così, la macchina esterna. Qui c'è l'essere umano con la sua intelligenza e con il suo corpo, lì c'è la macchina. Non c'è interazione, cioè sì, c'è un'interazione perché l'uomo usa la macchina, ma la macchina non usa l'uomo, magari la macchina accelera i ritmi dello spazio umano, ma non vi è un'integrazione, non vi è una mutazione. L'uomo resta esterno rispetto all'oggetto e al funzionamento della macchina. La grande novità delle tecnologie, che possiamo chiamare in tante maniere, possiamo chiamarle ricombinanti, possiamo chiamarle mutagene, perché generano mutazione, insomma delle tecnologie di fine secolo, che poi si possono ridurre a due grandi modelli: l'informatica, la tecnologia dell'informazione, e la biogenetica, la tecnologia del gene, la tecnologia della corporeità umana. Queste due tecnologie sono tecnologie interne. Questa è la grande novità. La tecnologia non è più esterna rispetto al corpo e alla mente umana, ma agisce direttamente sulle forme della cognizione umana, la memoria, l'attenzione, il linguaggio, l'immaginazione, eccetera. Tutte queste facoltà cognitive umane sono modificate dal computer, dalla rete soprattutto. La memorizzazione automatica, che sostituisce la memoria umana, l'accelerazione dei processi informativi, che modifica le modalità dell'attenzione umana, il multitasking, per cui noi possiamo contemporaneamente, dobbiamo contemporaneamente seguire con la nostra attenzione diversi flussi informativi, eccetera, eccetera. La diffusione dei media, la multimedialità, tutto questo interviene nelle forme della cognizione umana, nei vari ambiti della cognizione umana, e la macchina interna informatica. E poi che cosa dobbiamo dire della biogenetica? La biogenetica agisce proprio sulla composizione fisica, sulla composizione genetica stessa del corpo umano. E quando dico biogenetica, poi in realtà sto riferendomi a tutto un campo che è quello della integrazione tra chimica e corpo umano. Pensiamo agli sviluppi della medicina, pensiamo alla psicofarmacologia, al modo in cui sostanze chimiche possono modificare gli stati della mente, gli stati del cervello e così via. Tutto questo non è nuovissimo, perché sono alcune migliaia di anni che gli uomini sanno che ci sono dei funghi che ti permettono di pensare in una maniera, di immaginare in una maniera diversa, ma ora questo diventa una forma organizzata economicamente, tecnicamente, una forma tecnologica specifica, un campo specifico della tecnologia. È però una tecnologia invasiva, una tecnologia che produce delle mutazioni nel corpo e nella mente stessa degli umani, e nella dimensione sociale stessa. Non è più, dicevo, la macchina esterna, ma è la macchina interna che produce effetti sulla dimensione interna alla sfera umana. Ecco, qua noi troviamo il punto d'innesco di questa contraddizione, di questa altra faccia della medaglia, diciamo, che è rappresentata dalla sensibilità cyberpunk, che si manifesta a partire dagli anni Ottanta. Che cos'è il cyberpunk? La parola cyberpunk è una parola doppia, ed è una parola carica di significati, è proprio una sorta di bomba semantica che è destinata ad esplodere. Ciber è la dimensione pulita, la dimensione tecno, la dimensione relativa alla funzionalità del cuber, del cervello, e punk è invece quella forma di consapevolezza culturale, estetica, che proviene dal marcire della dimensione sociale. Punk nella sua origine, nella lingua inglese, significa marcio, corrotto, significa il marcire della carne, del corpo, della dimensione organica. Nella parola punk è contenuto un riferimento all'organico, organico in contrapposizione a meccanico o in contrapposizione soprattutto a elettronico. Ecco, dunque, il cyberpunk è la visione, la comprensione, l'intuizione, l'analisi e l'immaginazione di una conflittualità e però anche al tempo stesso di una integrazione tra dimensione organica e dimensione elettronica. Punto. Come interagisce il corpo umano con la protesi elettronica? È in fondo una domanda che la letteratura, l'immaginazione si sta già facendo da un sacco di tempo, fin da quando Mary Stevenson scrive Dr. Frankenstein, nell'epoca, ancora nell'Ottocento, nell'epoca romantica, e poi tutta la letteratura di fantascienza ha cercato di immaginare questo integrazione, che però non è mai un'integrazione facile tra corporeità e meccanismi, particolarmente meccanismi elettronici. Ecco, questa duplicità conflittuale diventa evidente, emerge, in qualche modo anche esplode, nel momento in cui, a partire dagli anni 60-70, comincia a costituirsi quell'ambiente tecnico, e però anche linguistico, anche sociale, che diventerà poi l'ambiente della rete. Ecco, nel momento in cui quella sfera comincia a costituirsi, a quel punto la letteratura, l'arte, la sensibilità cominciano ad interrogarsi sulle implicazioni. Se vogliamo individuare dei grandi riferimenti che ci permettano subito di comprendere come la sensibilità si sintonizza in qualche modo con questa problematica, pensiamo a due film che sono stati fra i più influenti nel tardo Novecento. Uno è ovviamente Blade Runner e l'altro è altrettanto ovviamente Matrix. Sono due film, due produzioni di massa che hanno visto centinaia di milioni di persone, credo, nel mondo, e che quindi hanno influenzato in modo molto profondo l'immaginario di massa degli anni 80, 90 e del primo decennio del secolo. Due film in cui il problema è similmente l'integrazione della tecnica con la sfera umana e più precisamente l'interazione delle devices, degli oggetti, insomma, degli ordigni, dei congegni elettronici con la carne, con il corpo e con il cervello, in quanto cervello vivente. Ecco, la sfera del made, fatto, di ciò che è prodotto artificialmente, con la sfera del born, ciò che nasce nella vita. La vita e l'artificio tecnico, più precisamente l'organico e l'elettronico, come interagiscono sul piano esistenziale, sul piano della vita quotidiana, come interagiscono sul piano sociale, economico, come interagiscono sul piano affettivo, sociale, sessuale, erotico. Già la fantascienza tradizionale aveva cominciato a porsi questo problema. Non so se qualcuno di voi conosce Caves of Steel di Isaac Asimov. Caves of Steel è tradotto con Abissi d'acciaio, credo che sia, in cui viene raccontata la storia di un mondo senza sesso, in cui esistono però degli androidi sessuali che svolgono la funzione di dare piacere, ed è la storia dell'innamoramento di una donna che conosce un androide, che usa un androide, ma poi non solo usa, ma conosce, quindi questa attribuzione di un senso e di un desiderio alla macchina. E Isaac Asimov è uno dei grandissimi, forse il più noto, degli scrittori della fantascienza classica, della fantascienza meccanica, della vecchia fantascienza, diciamo così. Però in quel libro, che il Sostil già anticipa una questione che sarà poi invece elaborata molto più dall'interno da autori come William Gibson, come Bruce Sterling o come Philip Dick. Ecco, Philip Dick sta un po' in un punto di passaggio tra la fantascienza meccanica ottocentesca o primo novecentesca e la, come possiamo chiamarla, post fantascienza del cyberpunk. Ma di Philip Dick parleremo poi in maniera più approfondita, proprio riferendoci ai testi di Antonio Caronia, che di Philip Dick è stato forse il più importante esperto. Dunque, cyberpunk come sensibilità della contaminazione tra organico ed elettronico, e questi due film, Blade Runner e Matrix, che popolarizzano la problematica del cyberpunk, anche anticipandola in buona parte, perché Blade Runner è un film del 1982, mi pare, e che tra l'altro nasce da una sceneggiatura, da un romanzo di Philip Dick intitolato Do Androids Dream of Electric Sheep? Forse che gli androidi si sognano delle pecore elettriche, che Philip Dick aveva scritto, non mi ricordo bene, forse alla fine degli anni 60, all'inizio degli anni 70, comunque insomma con grande anticipo rispetto al pieno manifestarsi della letteratura cyberpunk. La parola cyberpunk viene utilizzata per la prima volta da un facendo riferimento ad un autore che si chiama William Gibson e particolarmente ad un romanzo che si chiama Neuromance, che viene pubblicato nel 1986, addirittura, quindi 4 anni dopo la realizzazione di Blade Runner da parte del regista inglese mi dimentico sempre il suo nome, Ridley Scott. Blade Runner, dunque, e poi Matrix alla fine degli anni 90. L'un film e l'altro, poi ne parliamo, ci presentano questa problematica di un mondo in cui le tecnologie invasive, ricombinanti, l'elettronica, l'informatica e la biotecnologia entrano in rapporto con il mondo umano, che nuove forme di sofferenza o di piacere, quali ricchezze e quali miserie si aprono a partire da questa integrazione, a partire da questo scontro e anche però da questo incontro tra dimensione organica e dimensione elettronica. Ecco, questa è una problematica. Se occorre una parte. Entriamo più nel merito di questi due film, perché non tanto perché ci occupiamo di cinema, non è la mia competenza. E devo dire anche che io al cinema divento completamente imbecille, cioè non sono, sono come incapace di critica. Qualsiasi cosa accada al cinema è bellissimo, è straordinario, e quindi non sono un buon critico, o forse sono un ottimo critico, nel senso che forse sì, dal punto di vista, ma per quello che mi interessa non è tanto la qualità cinematografica, ma proprio la qualità di contenuto, il senso di questi due film, perché entrambi si introducono ad una problematica che è centrale nell'ambito delle nuove tecnologie, delle nuove forme sociali che si costituiscono grazie alle nuove tecnologie. Blade Runner ci porta al cuore della questione biogenetica, cioè proprio la tecnologia che trasforma il corpo umano fino al punto da rendere possibile la creazione di androidi. Sapete che immagino che tutti abbiano visto sia Blade Runner che Matrix, naturalmente. Sara, hai visto Blade Runner e Matrix? Scusa, ma così so se abbiamo tutti i riferimenti o se Blade Runner parte dalla questione dell'androide, cioè della creazione di un organismo artificiale che però perfettamente riproduce sia la corporeità che la cognizione dell'umano. E quindi in qualche modo la problematica del cyberpunk è concretizzata e incarnata nella figura di Roy Batty, di Zora, di Pris, di Leo, insomma dei 4 androidi che fuggono dal pianeta nel quale gli androidi debbono fare lavoro schiavistico. Gli androidi poi sono schiavi in quel mondo, perfetti lavoratori dell'epoca neoliberale, no? In cui tutto deve essere perfettamente libero, tranne il lavoro che deve essere perfettamente schiavo. E dunque i quattro androidi sono fuggiti dal lontano pianeta perché vogliono venire sulla Terra per ottenere una cosa molto umana, diciamo così, un supplemento di vita, perché come ricordate gli androidi sono sì perfettamente concepiti e anzi sviluppano in maniera particolarmente avanzata alcune competenze, e però hanno un tempo di vita limitato, muoiono dopo 3 anni, non mi ricordo, mi pare 3. Questi quattro androidi vengono per cercare il dio, il padre di tutti gli androidi, cioè colui che li concepisce, il boss della Tyrell Corporation, il quale a un certo punto viene costretto a riceverli. E si riescono a introdursi dentro gli uffici della Tyrell Corporation e chiedono di avere un supplemento di vita. Però, come sapete, la Terra dispone di poliziotti che debbono eliminare il pericolo degli androidi, perché gli androidi possono farlo, di scappare, arrivare sulla Terra e mettere in pericolo il sistema. E dunque ci sono degli specifici poliziotti addestrati, uno per riconoscere gli androidi, due per eliminarli. E quindi entra poi in campo Harrison Ford nella figura del poliziotto Deckard, il quale deve eliminare e individuare gli androidi. C'è tutto un complesso ma raffinatissimo sistema di individuazione degli androidi che lavora proprio su uno dei punti più interessanti della questione posta dal cyberpunk, cioè il rapporto tra dimensione cognitiva e dimensione affettiva. Cioè una macchina. Un androide in quanto macchina può sì sviluppare le competenze cognitive degli esseri umani. Per esempio, può essere in grado di sviluppare linguaggio, attenzione, e poi di sviluppare delle performance cognitive particolari, insomma, anche in modo molto raffinato. Anche più raffinato che gli esseri umani stessi, però la macchina androide non può sviluppare affettività, emozione. E quindi in particolare ci sono delle competenze che l'androide non possiede, non prova disgusto per certe cose, non prova compassione per certe manifestazioni della vita o della morte, e non può avere memorie di tipo affettivo relative, che ne so, a una madre o all'infanzia, e così via. Ecco, su queste sfumature che riguardano per l'appunto il rapporto cognizione-emozione, il regista e prima di lui lo scrittore Philip Dick riesce a costruire un discorso narrativo, una storia, beh, intanto molto raffinata sul piano proprio della dinamica narrativa e molto raffinata anche sul piano filosofico, sul piano teorico. il caso, che poi diventa il centro della storia, di una ragazza, di una persona che svolge una funzione particolarmente centrale nella dinamica del film, come si chiama lei, Rebecca o Rachel? Rachel mi pare che sia, la ragazza che lavora per la Tyrell Corporation e che però poi diventa diciamo l'amante del poliziotto di Harrison Ford, Deckard, quel caso diventa quello diciamo più difficile, complesso, perché sta proprio al limite. Rachel sembra avere sviluppato non soltanto competenze cognitive, ma anche competenze affettive particolarmente raffinate. Per esempio, ha ricordi, memories, ha memorie legate all'infanzia, legate alla musica, legate a raffinati sentimenti che soltanto gli esseri umani sarebbero in grado di sviluppare, ma probabilmente è invece una rappresentante di una nuova generazione di androidi nei quali sono stati immessi anche dei chip elettronici capaci di simulare per l'appunto proprio la memoria, il ricordo dell'infanzia, ricordo della madre e così via. Ecco, il problema tecnico e filosofico che si pone con il personaggio di Rachel, se devi andare via, prima firma. Ecco, Blade Runner dunque ci pone di fronte ad una questione essenziale della problematica e della immaginazione, dell'immaginario cyberpunk, la contraddizione e l'integrazione di androide e di umano, e al tempo stesso anche la questione del rapporto tra sfera cognitiva e sfera emozionale. La cognizione si può simulare, l'emozione no, o forse sì. Perché no? Perché l'emozione non può forse essere tradotta in termini cognitivi? Domanda che il cyberpunk si pone. Cos'è l'emozione? E come si può simularla in termini di intelligenza artificiale? Chiuso questo argomento, l'argomento Blade Runner. E poi c'è l'altro, arrivederci, e poi c'è l'altro, l'altro nucleo di immaginario cinematografico che è rappresentato invece da Matrix, questo film diretto dai fratelli Wachowski, che adesso recentemente hanno fatto un altro film che forse vi è capitato di vedere, che è questo Cloud Atlas, era in circolazione, è uscito all'inizio dell'anno, è un film molto meno diciamo pop di quanto fosse Matrix, però ha una sua raffinatezza sia estetica che anche concettuale, insomma è un film interessante, naturalmente tratto da un romanzo di uno scrittore inglese che si chiama David Mitchum. Matrix lavora su un'altra delle grandi questioni del cyberpunk, dell'immaginazione liminare dell'immaginazione, del limite che si pone nel limite tra dimensione umana, sociale, organica e dimensione macchinica, tecnica, elettronica e così via. Il problema, diciamo così, ne pone molti di problemi, del controllo e al tempo stesso il problema della, beh, della realtà, del rapporto fra realtà e mente. Cioè, se adesso raccontare Matrix non ci riesco, ma dal momento che l'avete vista sapete a che cosa mi riferisco. Il giovane Neo viene convocato da qualcuno che non sappiamo esattamente chi sia per affrontare un problema globale, totale, metafisico quasi, cioè il problema del rapporto fra l'esistenza degli esseri umani e una specie di macchina di simulazione che sta all'origine della esistenza stessa del mondo umano. Qualcuno, la Matrix, per l'appunto la matrice, la grande matrice che al tempo stesso è informatica e però anche esistenziale, la grande matrice ha prodotto e continuamente governa la vita e la percezione degli esseri umani. Anzi, vita e percezione sono la stessa cosa. Noi crediamo di vivere, in realtà percepiamo, e percependo proiettiamo il mondo. Voi ricordate la scena in cui Morpheus convoca Neo e gli dice all'inizio di tutto c'è la scelta di una pillola, se scegli la pillola rossa allora vedrai, se scegli la pillola blu allora ti illuderai di vedere, ma è meglio che tu ti illuda se vuoi avere di intorno un mondo, altrimenti se vedi la realtà è questa, e te la faccio vedere per un attimo, ed è quella realtà completamente spettrale di un mondo distrutto dalla guerra nucleare, ridotto a pura macerie grigie, velenose, mentre grazie alla pillola giusta puoi percepire un mondo che è il mondo della pubblicità, dell'illusione quotidiana. Ecco, però la matrice ci governa riducendo la nostra libertà e quindi noi abbiamo deciso di ribellarci contro questa illusione. E da quel momento non ci si capisce praticamente più niente, io l'ho visto 20 volte Matrix, ma non potrei dirvi esattamente che cosa accade. E quello che è però chiaro è lo scenario che Matrix ci presenta, e lo scenario è quello di una sovrapposizione tra mondo dell'illusione tecnologica e mondo di una pretesa originaria libertà umana che si ribella contro l'illusione tecnologica. Per fare cosa poi non è chiaro, perché tant'è vero che Matrix ha una serie di puntate successive, e i due Wachowski, che all'epoca di Matrix erano due uomini, adesso invece uno dei due Wachowski è diventato una donna e si chiama Lana, e i due Wachowski, che debbono essere due tipi piuttosto bizzarri, hanno con quel film creato una sorta di metafora cyberpunk di un complesso discorso filosofico, che è poi il discorso filosofico di Jean Baudrillard, uno degli autori forse più importanti di quell'epoca, degli anni 80-90. Jean Baudrillard, autore di libri come lo scambio simbolico e la morte, o come De la séduction, che è un libro sulla seduzione, che è un libro che riguarda proprio le questioni della simulazione, della creazione di mondi che non esistono. E Baudrillard ha avuto un rapporto intellettuale molto stretto con i fratelli Wachowski nel periodo dell'elaborazione del film e dopo. I Wachowski fanno riferimento esplicito alle opere di Baudrillard. Baudrillard ha scritto alcune cose a proposito del libro, insomma, a proposito del film. E quindi il carattere, l'intenzione filosofica di quel film è esplicita. Matrix, sinceramente a me piace molto di più Blade Runner mi sembra un film di grandissima godibilità oltre che di grande complessità concettuale. Matrix è un po' più finta per molte ragioni, però si tratta certo di grande pop, di un grande film pop anche in questo caso, e di una grande forma di popolarizzazione di un complesso discorso filosofico e tecnologico e letterario. L'un film e l'altro si pongono, elaborano la questione centrale dell'immaginario cyberpunk, cioè la questione del rapporto fra corporeità umana e mente umana e dimensione tecnologica e strumentazione tecnologica. Ancora di più, ancora più precisamente, si pongono il problema dell'integrazione necessariamente dolorosa dell'integrazione fra organico ed elettronico. Questo è il nucleo narrativo e filosofico della letteratura cyberpunk e di questo ambito immaginario che fiorisce tra gli anni 80 e gli anni 90. Ecco, io mi fermerei qua dicendo che in questa maniera noi abbiamo introdotto le problematiche che sono le problematiche del cyberpunk. Riprenderemo, magari approfondendo un po' il discorso su alcuni autori della letteratura cyberpunk, e poi riprenderemo anche sviluppando alcune delle implicazioni direttamente sociologiche che sono relative agli anni 90, insomma allo sviluppo degli anni 90, e dopodiché entreremo nel merito di alcuni casi, di alcune esperienze, di alcune opere, di alcuni autori, e lo faremo leggendo dei brani scritti da Caronia. Ecco, direi che domani oppure venerdì cominciamo a leggere alcune cose di Caronia che entrano nel merito di autori come Ballard, Burroughs, Gibson, cercando proprio di far venire fuori le implicazioni letterarie, le implicazioni immaginative, ma anche quelle sociologiche e tecnologiche, perché no, della questione. Arrivederci domani a mezzogiorno. Domani da mezzogiorno.